Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Al di là della non rettifica ma precisazione la Banca Centrale Europea sulle parole, sull'esatto senso delle parole di Mario Draghi di ieri, e le borse in questo momento comunque restano tutte ben intonate, o meglio resta ben intonata Milano, che ancora si avvantaggia di dinamiche sue. Mi riferisco non tanto a Intesa San Paolo, che comunque anche oggi guadagna il 2,1%, ma Unicredit più 3,60, Mediobanca più 2,5, Unipol più 2,20, Banco BPM più 2,16, Unipol Sai più 2% e Fineco Bank più 4,34%. E quindi forti tutte le banche oggi, ed è il motivo per cui Milano ha un andamento diverso dal resto. Perché in realtà Parigi è invariata adesso, Francoforte pure perde lo 0,1%, Londra meno 0,60%, il Dow Jones guadagna invece lo 0,60%. Parleremo, visto che siamo in tema di borsa, anche di Mediaset, perché c'è una nuova vicenda. Mediaset potrà procedere al riacquisto di azioni proprie fino al 10% senza che Fininvest incorra nell'obbligo di OPA. In assemblea questo è stato deciso, escludendo Fininvest, che ha il 39,5% del capitale, rappresenta il 52% del capitale, con i fondi e il retail che pesano circa il 12%. Questa è la soglia sufficiente, ai sensi della legge, per non far scattare le soglie dell'OPA a carico di Fininvest. La delibera è passata ad ampissima maggioranza, 98,68%. Assenti gli azionisti di Vivendi, che ha il 28,8% del capitale. Ne parleremo perché nel corso dell'assemblea sono state varie dichiarazioni anche del presidente Federico Falonieri, che ha definito un attacco al cuore di Mediaset l'operazione di Vivendi, e ha detto: la rottura dell'accordo con Vivendi ha segnato in modo profondo il 2016, distrutto il valore potenziale dell'aggregazione fra i due gruppi. E ha annunciato con Falonieri anche il fatto che il contenzioso con Vivendi non riguardi solo i diritti violati, ma anche i progetti futuri di Mediaset. E qui si preannuncia una nuova causa, perché c'è un condizionamento pesante, secondo l'accusa, sullo sviluppo che non è stato possibile realizzare in Mediaset. Ancora poi ha detto Mediaset che faranno in autunno, ha detto con Falonieri che in autunno è prevista una nuova asta per i diritti TV della Serie A. Noi parteciperemo con l'obiettivo di ottenere la migliore offerta televisiva calcistica per i tifosi italiani. Anche per Silvio Berlusconi ha detto: non vedo comunque un rischio a scalata, riferendosi a Vivendi. Questo per quello che riguarda notizie collegate anche con la borsa. Partiremo subito in apertura però con il dato sul PIL italiano, perché come già i nostri GR24 vi hanno ricordato, anche il Centro Studi Confindustria oggi è uscito con una revisione al rialzo. Dico anche perché ha iniziato l'Istat, poi c'è stato il Fondo Monetario, Standard & Poor's, e una revisione al rialzo sulla nostra economia significativa, nel senso che porta la crescita prevista per quest'anno dello 0,8 precedentemente atteso a l'1,3%, quindi siamo sotto la media europea, ma c'è una revisione netta al rialzo. Di questo parleremo, però, visto che è la notizia più importante sicuramente da un punto di vista economico della giornata, su questo si concentrano anche i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula, e ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Se a livello globale la crescita economica si va consolidando, per l'Italia è sempre azzardato parlare di ripresa, vista la durata e l'intensità della caduta per gli indicatori economici in questi anni. Qualcosa però si sta muovendo, e oggi lo confermano sia Standard & Poor's con il global rating sull'Eurozona, sia le nuove previsioni del Centro Studi Confindustria. In entrambi i casi vediamo una revisione al rialzo della crescita, sia per il il 2017 sia per il 2018, in buona parte dovuto all'innalzamento delle rilevazioni Istat. Quest'anno nel nostro paese il PIL dovrebbe segnare un incremento dell'1,3%, ben oltre le precedenti previsioni, ad esempio quelle del Centro Studi Confindustria lo davano inchiodato allo 0,8%. Si tratta di un'accelerazione trainata sia dal buon andamento dell'export sia la crescita rilevante degli investimenti. Ecco, ma perché questi dati vanno presi senza troppi trionfalismi? Beh, innanzitutto perché, lo ribadisce anche il Centro Studi Confindustria, serviranno almeno altri 5 anni fino al 2023 per riportare le lancette dell'economia ai livelli pre-crisi. Poi perché questi buoni segnali sulla crescita si contrappongono invece a dati non proprio incoraggianti sull'occupazione, che continuerà a soffrire, crescerà ma più lentamente rispetto ai già bassi livelli attuali. Il terzo motivo è che, come sempre, bisogna guardare anche agli altri paesi. La Germania crescerà quest'anno del 2%, la Francia dell'1,7%, per non dire della Spagna, che arriverà addirittura al 3%. Ecco spiegata la cautela sui nostri dati. L'Italia va meglio, ma resta a ruota degli altri. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, partiamo con le notizie in breve, come sempre. Tra l'altro avremo come approfondimento anche il Venezuela, nel senso che adesso c'è la tensione massima dopo che un attacco in elicottero contro le sedi istituzionali nel centro della capitale venezuelana, Caracas, messo a segno da un poliziotto ribelle. Sembra che la cosa sia rientrata, insomma il paese continua a essere in una situazione difficilissima, e ricordo che Venezuela è seduto sulle maggiori riserve petrolifere a livello mondiale. Ecco perché è difficile poi accettare la povertà in cui è ridotto il paese. Pensate che Venezuela sostanzialmente ha le più grandi riserve petrolifere del mondo, 300 miliardi di barili. L'Arabia Saudita, che è seconda, ne ha come riserve stimate 264 miliardi. Veniamo all'Europa invece, dove il commissario europeo al bilancio Günther Oettinger, nel presentare il documento di riflessione sulle finanze europee post 2020, ha quantificato in circa 10-11 miliardi il buco cosiddetto che arriverebbe al bilancio europeo, perché nonostante lo sconto pesa l'assenza della Gran Bretagna, e quindi prevede dei tagli soprattutto ai piani di coesione per le regioni, e tagli anche all'agricoltura. Tra l'altro ha detto sempre Bruxelles che una revisione della spesa è necessaria per finanziare le nuove priorità, che sono i migranti, lotta al terrorismo e difesa comune. Lo status quo non è un'opzione, per questo dovranno essere fatte delle scelte dure. E via libera dall'Europa anche un piano da 3,3 miliardi di euro per aggredire le cause delle migrazioni, mobilitando investimenti privati nel paese d'origine. Accordo raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo, questo nel giorno in cui, come vi hanno ricordato i nostri GR24, l'Italia, attraverso il suo rappresentante, l'ambasciatore Maurizio Massari, l'ambasciatore italiano a Bruxelles, ha denunciato una situazione ai limiti delle capacità sul fronte degli sbarchi, difficile permettere nuovi sbarchi, e le fonti appunto parlano di 12.000 sbarchi in 48 ore da 22 navi, molte sono imbarcazioni di soccorso delle ONG, e l'Italia appunto sta valutando di chiedere di bloccare lo sbarco di navi che non battano bandiera italiana. Veniamo all'Italia, bene l'asta di botta 6 mesi, il tasso continua, questo si chiama effetto Draghi, continua a avere un nuovo minimo a meno 0,37%, quindi si accetta di perdere lo 0,37% dopo 6 mesi, pur di dare debito all'Italia? La buona la domanda, il rapporto di copertura è sì calato, ma resta una volta e mezzo l'offerta. Nel giorno in cui l'Istat ci dice che l'inflazione rallenta a giugno all'1,2%, che è il livello più basso quest'anno, quindi da gennaio, il calo della spesa ha fatto più 0,7% rispetto a un anno prima, quindi rallenta anche l'andamento dei prezzi dei beni maggiormente acquistati. Questo appunto si inserisce in una situazione in cui i dati sull'inflazione, dopo alcuni segnali, ma ripeto, era soprattutto inflazione esterna, inflazione interna, cioè di consumi in aumento che vanno a spingere sui prezzi, ne abbiamo vista poco. Ancora, per quello che riguarda invece altri temi, non voglio anticipare la rubrica del venerdì, però oggi segnalo che sono 50 dipendenti del Comune di Piacenza indagati con le accuse di falso e truffa. Erano soliti timbrare i cartellini in ufficio per poi uscire a farsi i fatti propri, c'è chi andava in palestra, chi andava a fare la spesa e quant'altro. Mentre il rapporto Simbola, oggi presentato dal ministro Franceschini, ha registrato come la cultura in Italia solo nell'ultimo anno abbia prodotto 90 miliardi di euro contro gli 89 del 2015, ossia il 6% della ricchezza prodotta dall'intero paese, una cifra che quasi triplica grazie però agli effetti, grazie agli altri settori dell'economia che vengono attivati dalla cultura, e nel complesso muove 250 miliardi di euro, ossia quasi il 17% del valore aggiunto nazionale. Ogni euro prodotto in cultura ne genera infatti 1,8 in altri settori. Questo tra l'altro era contenuto del rapporto Fondazione Simbola e Union Camere. Sentiamo il ministro Franceschini al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Simbolo Union Camere dimostra un'altra volta con i numeri, con la verità dei numeri, quanto la cultura, il settore delle industrie culturali e creative siano centrali, siano importanti per far crescere lavoro, occupazione e sviluppo. Veramente la centralità nuova che si è ritrovata deve essere rafforzata, perché risponde alla vocazione italiana e contribuisce a far crescere il paese in modo intelligente. Le cifre sono cifre importanti che, anche confrontate con altri settori, dimostrano quanto questo campo, industrie culturali e creative, sia determinante non nel futuro ma anche nel presente. Se poi viene sostenuto in modo più forte, lo sarà ancora più centrale e più determinante. Ci sono alcuni provvedimenti che questa legislatura, dall'art bonus alla legge sul cinema, a tanti altri che hanno dato frutti. E adesso dobbiamo completare alcuni provvedimenti, primo fra tutti la nuova legge sullo spettacolo dal vivo, che aiuterà il teatro, la musica, la danza, tanti altri settori che fanno parte dell'immagine italiana. E su questo, sempre sul rapporto Simbola, è emerso un altro dato interessante: chi opera nel campo delle professioni culturali e creative possiede un più alto livello di istruzione rispetto alla media, il 41% degli occupati è laureato contro il 20% degli altri settori, e ottiene un reddito da lavoro di circa il 15% più alto di quello che avviene mediamente. Nel rapporto si legge che il sistema produttivo, culturale e creativo dà lavoro a 1,5 milioni di persone, quindi siamo al 6% del totale degli occupati. Su questo Ivan Lobello, presidente di Union Camere, che appunto ha curato il rapporto era presentato congiuntamente da Fondazione Simbola e Union Camere, sempre al microfono del nostro Giorgio Stamatopoulos. Si cresce con la cultura, non come altri modelli precedenti, e quindi su questo il nostro è un paese che ha bisogno di crescere ulteriormente da questo punto di vista. Le manifestazioni come queste sono importantissime, perché comunque mandano un messaggio molto significativo al nostro paese. Su questo credo che noi dobbiamo lavorare su un progetto importante. Io mi sono occupato di questo da molti anni e devo dire che è cresciuta questa vicenda, e sotto questo profilo sta cominciando ad avere un ruolo molto importante nel nostro paese. Si investe, molte aziende fanno investimenti significativi, e non lo fa solo, diciamo così, per una pubblicità o altro, ma perché questo rappresenta un valore anche dell'azienda e delle imprese, quindi anche questo è un elemento fondamentale. Quindi le aziende prima avevano, diciamo così, un progetto tutto sommato inesistente, mentre oggi valutano questo sul valore della cultura. Ancora due notizie, in breve. Dunque, ieri ci si è creata molta confusione sull'emendamento nel DDL concorrenza relativo alla reintroduzione del meccanismo del tacito rinnovo per le polizze assicurative facoltative non riguarda l'RC Auto. Ieri infatti la confusione nasceva su questo, che sembrava che riguardasse anche l'RC Auto, e quindi riguarda la scadenza annuale delle polizze del ramo danni diverse dall'RC Auto, perché dal 2013 non c'è più il tacito rinnovo, e questo fu fatto per consentire anche la mobilità dell'assicurato. Quando il rinnovo è tacito, tu delle volte te ne accorgi troppo tardi. Ha precisato comunque che non vi è nessun cambiamento sull'RC Auto, dove appunto, ripeto, non scatterà il tacito rinnovo, e lo ha spiegato Luigi Di Falco, responsabile vita e welfare dell'ANIA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, al microfono della nostra Deborah Rosciani durante Cuore e Denari. Il problema proprio non sussiste, c'è un gigantesco equivoco. La questione non riguarda le coperture RC Auto, riguarda gli altri rami danni diversi dall'auto, polizze di norma non obbligatorie, la polizza sulla casa, sulla salute, per cui l'emendamento approvato sul DDL concorrenza ha riportato tutto alla situazione attualmente in vigore, cioè mentre per l'RC Auto esiste già il divieto di tacito rinnovo e nessuno lo tocca, quindi ogni anno la polizza scade e deve essere rinnovata esplicitamente dall'assicurato, se vuole con quella compagnia, se vuole cambia. Su tutto il resto esiste la possibilità da parte dell'impresa di assicurazione degli assicurati di prevedere un rinnovo tacito che spesso, come hanno detto anche l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, molte associazioni di consumatori e noi, è un vantaggio nei confronti degli assicurati, perché si pensi alle polizze malattia, se io stipulo oggi una polizza che prevede una durata pluriennale, sono sicuro che le condizioni sono quelle di oggi. Se invece devo automaticamente rinnovare ogni anno la polizza che scade, rischio che magari nel corso della copertura mi ammalo e la compagnia o non mi assicura più o mi assicura a un prezzo maggiore. E quindi con questa lettura cambia completamente la prospettiva del tacito rinnovo per le polizze non RC Auto, per evitare che possano cambiare in corso d'opera a vantaggio dell'assicurazione, a svantaggio dell'assicurato, le condizioni della polizza stessa. Dicevo, ancora un'altra notizia invece che riguarda la vicenda dello stabilimento Natuzzi. Perché? Perché è successo un po' di tutto. Allora, i sindacati denunciano un dietrofronte dell'azienda dopo l'annuncio fatto ieri nel corso della cabina di regia del Ministero dello Sviluppo Economico, e individuano in 1300 i posti a rischio. Alla presenza del viceministro Teresa Bellanova e dei rappresentanti delle regioni Puglia e Basilicata, la proprietà ha annunciato l'impossibilità di sostenere il piano industriale concordato nel 2013 e che aveva l'obiettivo di garantire la salvaguardia di tutti i lavoratori con investimenti sia sui siti produttivi che sull'apertura del nuovo sito di Ginosa. Il motivo che ha spinto l'azienda a tali decisioni risiederebbe nelle ultime sentenze della magistratura relative ad alcune cause in tribunale vinte da alcuni lavoratori per la mancanza rotazione della cassa integrazione e contro la procedura di licenziamento. L'azienda ha dichiarato che per ogni lavoratore reintegrato dal giudice ci sarà un lavoratore licenziato tra quelli che stanno lavorando. Ha un atteggiamento però diverso il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova, che ha detto gli impegni vanno rispettati e comunque si tratta di un rinvio a settembre, lo ha chiarito al microfono della nostra Anna Marino. Il governo non può fare altro che rispettare le decisioni della magistratura, come deve fare l'azienda, come devono fare le parti. Quindi non è saltato il contratto di programma? Assolutamente no, solo che l'azienda ha detto che in queste condizioni ritiene di non avere la capacità di investimento per proseguire. Ieri l'impegno che è stato assunto è quello di aggiornarci a settembre, perché è mia ferma convinzione che intanto non si può far saltare un'azienda che ha al suo interno migliaia di lavoratori, è collocata tra l'altro in un'area del Mezzogiorno, non può saltare da nessuna parte, ancora più difficile è fare questa scelta nel Mezzogiorno. Il livello di difficoltà è tale che l'azienda ha comunicato che può licenziare un lavoratore per ogni lavoratore che viene reintegrato, è così? Questa è quello che ha dichiarato l'azienda. Io ho chiesto all'azienda di avere molto rigore nel comportamento, perché c'è una sentenza che riguarda tre persone e c'è un piano industriale che riguarda invece migliaia di persone. È stato fatto un accordo che dava una risposta anche ai lavoratori che da molti anni erano collocati in ammortizzatore sociale. Ci troviamo di fronte ad una realtà dove ci sono dei lavoratori nel sito di Ginosa che da oltre 10 anni erano collocati in cassa integrazione. Allora, andiamo adesso sul metro, la pubblicità, poi il primo tema, i dati migliori, nettamente migliori delle attese, anche se siamo solo all'1,3% di crescita italiana sul 2017, che cosa ha contribuito? Poi la borsa, Mediaset e anche le vicende di Venezuela e banche venete. 349-238-6666 resta come sempre il numero per gli sms e whatsapp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e il video del programma sia sul sito della radio che su Facebook. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone, le app, nuovi servizi web e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Focus Economia. Di nuovo in diretta, partiamo dal primo tema. Anche il Centro Studi Confindustria segnala una crescita più forte del previsto nel 2017. Stiamo parlando di una crescita ancora sotto la media europea, però porta la stima dallo 0,8% di crescita all'1,3%, segnala per carità che il resta sempre del 5% sotto i valori pre-crisi PIL italiano. Devo dire che oggi anche altri istituti, dopo che è arrivato il Fondo Monetario Internazionale, che aveva già portato dallo 0,7% all'1,3%, per quest'anno sarà un impulso analogo dallo 0,8 all'1,2%, il governo ancora stima l'1,1. Il punto è che per il 2018 anche il Centro Studi Confindustria, come tutti gli altri istituti, segnala un rallentamento, cioè si andrà all'1% di crescita. Sentiamo su questo intanto il presidente di Confindustria, la presentazione del dato, Vincenzo Boccia, in occasione appunto del nuovo rapporto sugli scenari economici del Centro Studi Confindustria, al microfono di Giorgio Stamatopoulos. Si vede l'inizio di una ripresa e si vede anche l'effetto di quelle che sono state le cause. Il piano Industria 4.0 è intervenuto sui cosiddetti fattori e non settori, una parte rilevante del sistema industriale italiano ha reagito, si riattivano investimenti privati nel paese, diventano maggiore competitività per le imprese, più export nel paese, siamo a più 7% rispetto al bimestre dell'anno scorso, più occupazione. Questo significa due cose: una, che se crescono le imprese anche la macroeconomia del paese va bene, quella che ha permesso al ministro Padoan di avere uno sconto sulla manovra, e che non c'è dicotomia tra imprese e famiglie, perché più occupazione sono più occupazione delle persone e delle famiglie italiane che costruiscono un percorso virtuoso. Noi dobbiamo continuare ad accelerare su questa strada e questa direzione, non depotenziarla. Così appunto il presidente di Confindustria Vincenzo Bocci, e siamo in collegamento con il direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi. Buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dunque, come dicevamo, dopo che anche altri organismi hanno dato tutte proiezioni più positive delle attese sul 2017, voi avete rivisto dallo 0,9 al 1,3% il PIL quest'anno, e appunto poi è arrivata anche Standard & Poor's con un rialzo analogo, anche se lo ferma all'1,2%. Che cosa ha contribuito in maniera determinante, quali fattori, a una revisione che comunque uno può sempre dire che l'1,3% è ancora poco rispetto alla media europea, ma è sicuramente meglio dello 0,9 che stimavate precedentemente, anzi 0,8 che stimavate nelle, precedentemente? La differenza è 0,5, 0,3 viene dai dati migliori diffusi dall'Istat, meglio da una revisione dei dati dell'Istat, che disegnano un profilo in accelerazione nella seconda parte del 2016 e all'inizio del 2017 più marcata di quella che conoscevamo prima, gli altro 0,2 viene da questi indicatori qualitativi che ci dicono che questa accelerazione prosegue nella parte centrale del 2017. Teniamo conto che la crescita potenziale del nostro paese è meno della metà di quell'1,3%, e quindi è normale immaginare anche un rallentamento successivo, legato però soprattutto al fatto che l'economia mondiale viaggia a ritmi meno sostenuti l'anno prossimo, con un commercio, scambi mondiali quest'anno fanno un 3,9, che è molto elevato rispetto a quello che avevamo abituati in precedenza, dovuto alla caduta del traino del PIL rispetto alle esportazioni, la cosiddetta elasticità. Pensiamo l'anno prossimo questa elasticità torni a scendere, quindi abbiamo un commercio mondiale che cresce solo del 3,3%, questo fa flettere la dinamica delle nostre esportazioni dal 4,6 al 3,9%, questa è la ragione principale di un rallentamento l'anno prossimo. In questo 1,1 non è scontato in alcun modo il bilancio 2018, che andrà fatto con la legge in ottobre. Si sta negoziando, come noto, con l'Unione Europea uno sconto sulla manovra, che dovrebbe partire in teoria da 1,2% di PIL, adesso scende verso 1,05, quindi sarà circa 8 miliardi, con 8 miliardi tra tagli di spesa e maggiori entrate, chiaramente la crescita sarà più lenta dell'1,1. Quindi questo è il motivo per cui 1,3% è la stima quest'anno e invece rallenta l'1,1% l'anno prossimo, che comunque è meglio dell'1% stimato in precedenza. Tornando all'anno in corso però, Luca Paolazzi, Presidente Boccia citava il dato sull'export anche in rafforzamento rispetto già al buono, in alcuni casi ottimo, dato dell'anno scorso. Questo vuol dire che il contributo principale alla crescita del PIL è ancora nell'export, o avete notato e state notando anche un contributo più significativo, un po' più forte, dei consumi interni? I consumi viaggiano e investimenti, chiaramente. I consumi viaggiano più o meno come gli altri anni, anzi rallentano, 1,5, 1,3, 1,2,1. Qui si tratta di capire che cosa si intende, nel senso che la domanda interna finale va bene, dà un contributo molto forte. Le esportazioni crescono più rapidamente, tant'è che in percentuale al PIL salgono al 32% le nostre stime l'anno prossimo, dal 27% che erano nel 2011. È chiaro che però maggiore domanda interna e le stesse maggiori esportazioni attivano anche maggiori importazioni, e questo significa che il contributo delle esportazioni nette è praticamente nullo. Ripeto però, senza l'aumento delle esportazioni avremo una crescita del PIL ancora più bassa. Certo. Perché con la domanda interna che cresce senza il contributo delle esportazioni, il drenaggio alla crescita che viene dall'import sarebbe tale da ridurre la dinamica del PIL. Quindi io e noi abbiamo scritto nel rapporto che il traino viene dall'export, che non solo approfitta dell'accelerazione del commercio globale, ma continua a guadagnare quote di mercato, e dagli investimenti, che hanno una serie di condizioni più favorevoli, compreso appunto il rafforzamento dell'ammortamento, sia per quanto riguarda il superammortamento sia per quanto riguarda i prodotti legati a Industria 4.0. Quindi sia il superammortamento che l'iperammortamento, appunto il 140 e il 240% dell'investimento. Su questo sono ripartiti gli investimenti privati, appunto anche tu leghi, come faceva prima Boccia, questa ripartenza in primo luogo al piano Industria 4.0. Gli investimenti pubblici invece, e qui veniamo al capitolo di che cosa manca ancora per irrobustire la crescita economica, perché sappiamo che gli investimenti pubblici in questi anni sono rimasti al palo, nel senso che sono anche calati. Sì, esattamente. Diciamo che osserviamo un'estensione, un allargamento della ripartenza degli investimenti che era cominciata nella seconda metà del 2013 dai mezzi di trasporto e poi si è estesa via ai macchinari e adesso cominciano a risalire anche gli investimenti in costruzioni, anzitutto l'edilizia privata residenziale, ma anche investimenti pubblici. Non hanno una grande impennata, ma rispetto alla situazione precedente in cui in generale le costruzioni facevano da zavorra, addirittura toglievano, nel senso che tiravano indietro la crescita, adesso danno un contributo positivo che noi vediamo complessivamente anche piuttosto sostanzioso, visto che prevediamo una crescita degli investimenti in costruzione del 2,2% l'anno prossimo, che insieme sia privata che pubblica. Pensiamo, diciamo, che i fondi stanziati vengano finalmente spesi grazie al superamento di quell'incertezza regolatoria che li aveva invece tenuti giù l'anno scorso con l'introduzione del nuovo testo unico per gli appalti, che aveva creato incertezza presso le pubbliche amministrazioni riguardo all'applicazione. Allora, tutto questo, diciamo, è lo scenario. Che cosa diciamo, potrebbe andare storto? Tu già facevi riferimento alla manovra, non perché la manovra debba andare storta, ma lì sarà importante capire che margini ci verranno lasciati. Voi avete già iniziato a valutare quello che potrebbe essere l'impatto della fine, anche se Mario Draghi si tiene tutte le mani libere e non vuole vincolarsi a una data, ma una riduzione del quantitative easing? La riduzione del quantitative easing porterà ovviamente a un aumento dei tassi di interesse a lungo termine, quindi al costo del denaro. Noi diciamo appunto che questo avviene in là nel tempo e quindi fuori un po' dal nostro orizzonte previsivo. Chiaramente paghiamo un costo denaro più alto che altri paesi e poi inciderà anche su un aumento della spesa per interessi, quindi in realtà sulla diciamo capacità dei paesi di continuare a ridurre il deficit pubblico e ricondurre la dinamica del debito al di sotto, diciamo, in un trend crescente rispetto ai livelli attuali, alla dinamica attuali. Quello che può andare storto sono anche altre cose, forse meno prevedibili in un certo qual modo e quindi anche più pericolose. Parliamo di tensioni geopolitiche, c'è una tensione molto forte in Medio Oriente, c'è, diciamo, una situazione non facile nell'Asia con il Nord Corea. E soprattutto c'è grande incertezza riguardo al piano di taglio di tasse, aumento di spesa promesso dall'amministrazione Trump negli Stati Uniti, sia sulla sua entità sia sui suoi tempi. Ieri il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita del PIL americano al 2,1% per l'anno prossimo, noi continuiamo a averlo al 2,5%. Sullo sfondo c'è una questione cinese o supposta tale di alti debiti e quindi paura di un atterraggio duro della Cina, ipotesi che più volte è stata ventilata e su cui ci siamo chinati per provare a stimare l'impatto di una frenata brusca che sarebbe significativo anche per il nostro PIL, però credo che noi applichiamo alla Cina modelli e logiche e schemi mentali che sono diversi da quelli che in realtà usano i cinesi e quindi non è facile, diciamo, capire cosa succede, cosa succederà, diciamo, in quel paese. Allora, grazie al direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi. Grazie a voi, buon ascolto. Allora, come sempre in questi casi ci sono messaggi di artigiani, di commercianti, di anche piccoli imprenditori che dicono: noi questa ripresa non l'abbiamo vista, anzi abbiamo fatto due mesi molto difficili. Lo dico perché è chiaro che il dato è aggregato e quindi è una media di trilusse, c'è chi vedrà poco e c'è chi vedrà molto, però è innegabile che tutti gli indicatori che stanno arrivando segnalino una ripresa non sufficiente, l'ha detto bene anche Paolazzi. Fra 5 anni rivedremo, se va avanti così, i livelli di PIL del 2008, quindi insomma, stiamo parlando di un 2022 e di una crisi che ci avrà accompagnato come livelli di PIL per 14 anni, cioè un pezzo di vita, è già un'altra cosa, però ce lo capisco questo, ma i dati non si possono negare, c'è una ripresa di attività trainata, come abbiamo appena spiegato, anche e soprattutto dall'export, e qui si vengono a delineare e a disegnare le differenze tra imprese, perché quelle che sono molto molto vocate all'export stanno andando molto bene. Chi lavora solo sul mercato interno, non ce l'ha fatta andare anche sui mercati esteri, ha delle grosse difficoltà. Comunque andiamo sul traffico e poi borsa, anche il Sole 24 Ore, Mediaset e Cotè sulle banche venete. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento Focus Economia. Allora, dunque, sì, alcuni continuano a scrivere, sono favole, sono balle, ripeto, se migliora l'attività produttiva, il problema è la distribuzione di questo miglioramento. Sappiamo, abbiamo detto molte volte, che c'è una pattuglia di 25.000-30.000 imprese che si sono già posizionate sui mercati esteri. L'obiettivo anche del piano Industria 4.0 è l'ammodernamento, non solo digitale, delle imprese, quindi fare in modo che la maggior parte si sposti e traghetti verso quella direzione, che poi vi siano tutto il mondo delle imprese che lavora con il commercio interno, con la domanda interna che è ancora in estrema difficoltà, lo sappiamo, ma questo, diciamo, non cambia il dato complessivo dell'Istat. Comunque la borsa adesso, contrastate le borse, anche la reinterpretazione delle parole di Mario Draghi poi ha contribuito, ma Milano fa eccezione perché segna un più 1,24% contro Parigi meno 0,11%, Francoforte meno 0,20%, Londra meno 0,60%, mentre il Dow Jones è positivo di uno 0,80%, soprattutto per le banche. UniCredit più 4%, FinecoBank più 3,70%, Mediobanca più 2,5% come Unipol, Banca Mediolanum, il Banco BPM, Banca Generali guadagna 2,30%, Intesa San Paolo il 2%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Fermo restando che di Mediaset parleremo dopo in un approfondimento, partiamo dalle banche. Sì, le banche continuano a correre, ormai è da lunedì, diciamo, che sono gestionate dopo lo scampato bail-in degli istituti veneti. E in particolar modo si sono messe in evidenza le azioni di Unicredit, come hai detto tu, più 4%, e di Intesa San Paolo. Intesa perché continua a beneficiare di una serie di giudizi favorevoli da parte di numerosi analisti che reputano favorevoli le condizioni applicate all'intervento per il salvataggio delle banche venete. Unicredit, ricordiamo che rimane sempre uno dei principali istituti italiani, che ovviamente a questo punto avranno la meglio come dimensioni Intesa, Unicredit, rispetto alle banche di taglio più piccolo. Poi peraltro va segnalato che della galassia Unicredit si sono risvegliate anche le Fineco. Nei giorni scorsi erano scivolate sotto la soglia dei 7 euro, avevano avuto un periodo di debolezza, invece quest'oggi si sono risvegliate, hanno messo a segno un più 3,7% e soprattutto riconquistato la soglia dei 7 euro. Sì, 7,05 euro per la precisione. Andiamo avanti su altri titoli. E invece Yux Net-a-Porter meno 2,50, Salvatore Ferragamo meno 1,5, Luxottica meno 1,5, Moncler meno 0,70, Ferrari meno 0,60, insomma oggi il lusso un po' soffre. Sì, il lusso soffre, va detto che nei giorni scorsi soprattutto Yux Net-a-Porter era letteralmente infiammata sull'ipotesi, sulla voce che la società sia nel mirino di Alibaba. Non sono arrivate smentite ma neppure conferme, e dunque sono scattate tutta una serie di prese di beneficio. Per quanto riguarda Ferragamo invece non è stata pubblicata la prima trimestrale, a questo punto si va direttamente alla semestrale e ogni giorno circolano mille ipotesi sul fatto che i conti possano andare bene o meno bene per la società di moda di Firenze. E andiamo adesso sui migliori e peggiori. Dimmi una cosa velocemente, A2A? Per quanto riguarda 2A, diciamo che sul finale si è un po' risvegliata, ha fatto più 0,4%, questa mattina invece era debole, visto che potrebbe essere messa in dubbio l'aggregazione con le società di Monza e di Como per la creazione di un megapolo lombardo, e questo perché proprio dopo l'ultima tornata elettorale è cambiata l'amministrazione nei due comuni. Sì. È diventata di centrodestra anziché di centrosinistra, e quindi ovviamente il nuovo sindaco potrebbe mettere in forza anche il processo di aggregazione che invece di fatto era già stato avviato. Certo. E che è molto importante per A2A in quanto porterà sia fatturato aggiuntivo ma anche margini aggiuntivi. Migliore e peggiore: gruppo Green Power più 15,70%, Prelios più 14,80%, Casta Diva Group più 10%, peggiori Novare meno 9,20%, Neurosoft meno 8,50%, Cotel Group meno 6%. Grazie intanto Eleonora Micheli, dopo parliamo del Sole 24 Ore, dell'Assemblea degli Azionisti di oggi e di Mediaset. Do anche qualche risposta a chi dice questa crescita dell'export non porta nessuna ricchezza al paese ma solo agli industriali. È assolutamente l'opposto, nel senso che quando un'impresa va bene assume e porta ricchezza anche ai dipendenti, oltre che al proprietario. E attenzione che le imprese più che delocalizzare stanno rilocalizzando, facendo un reshoring. Comunque ne parliamo dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie drammatiche e storie intense al Falco e Gabbiano. Se oggi noi conosciamo e apprezziamo Van Gogh, lo dobbiamo a sua cognata Joanna Van Gogh. Wolfgang von Trips, il nobile che attraverso la sua passione per le auto andò incontro alla tragedia. E poi voliamo sulle ali di carta fino a Verona per l'amore più famoso della storia, Giulietta, con il suo Romeo naturalmente. Un grande poeta, un grande uomo, un grande musicista dalla voce inconfondibile, Leonard Cohen. L'eroica, folle, tragica epopea del bandito Pugachev. Vi aspetto tutti i giorni alle 15.30 al Falco e il Gabbiano su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vedo ancora molti messaggi sui dati sul PIL. Ripeto, non è chiaro che siano dati aggregati, che siano una media statistica, ma dire che se va bene l'export vanno bene i soldi, vanno bene solo per gli industriali. Guardate che attraverso l'export le aziende mantengono l'occupazione, aumentano l'occupazione e diciamo pagano i dipendenti a qualunque livello. Mi sembra un punto di vista quantomeno strampalato. Non è che se vanno bene i consumi interni ci sia maggiore distribuzione. Il problema è che c'è la domanda mondiale, come ricordava Luca Polazzi, è trainata chiaramente dal commercio mondiale, non dai consumi interni, tant'è che nel 2018 il rallentamento sarà dovuto al rallentamento del commercio mondiale. Queste sono le stime, che poi uno apre il ragionamento a una vera politica di defiscalizzazione dei salari, questo l'abbiamo detto mille volte, ma nulla c'entra sul fatto che noi dobbiamo festeggiare il fatto che le imprese vadano bene nell'export e i dati sull'export siano in continuo miglioramento. Qualcuno mi scrive: l'export non contribuisce all'aumento dell'occupazione. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Cioè, l'aumento di un fatturato e degli utili, soprattutto di un'impresa, contribuisce all'aumento dell'occupazione. Da che mondo è mondo? Poi uno mi può dire che, attenzione, con la robotica e con l'information technology si sono distrutti i posti di lavoro. Questo è un ragionamento che si fa a livello mondiale e vale anche per l'Italia, ma insomma dire che l'export non conta sull'andamento complessivo delle imprese mi sembra una mezza follia. Allora andiamo invece su notizie che hanno a che fare anche con la borsa, ma mi riferisco in questo caso perché sono titoli quotati. Il primo ci riguarda chiaramente il Sole 24 Ore. Oggi si è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha votato appunto l'aumento di capitale. Su questo la nostra Anna Marino ha raggiunto al termine dell'assemblea degli azionisti l'amministratore legato del gruppo Sole 24 Ore, Franco Moscetti, che ha precisato anche che l'aumento sarà chiuso entro fine ottobre. Entro il 15 novembre, quando scadrà lo stand still, esatto, avremo già i soldi in tasca. E quindi fino a ottobre, siamo in ottobre, sarà sicuramente, ci avremo sicuramente i soldi in tasca. Quindi i tempi sono stretti e da qui all'allora? I tempi tecnici, nel senso che ormai l'offerta binding per la formazione l'abbiamo ricevuta, come già il Presidente ha detto n volte. E il consorzio di garanzia delle banche è stato formalizzato. La delibera del Consiglio Generale di Confindustria è già vecchia di qualche settimana, dicendo che sapete che poi le tre cose sono tutte e tre collegate l'una all'altra, e quindi o 0-100, ma mi sembra che siamo per il 100 tranquilli. Abbiamo questo vantaggio che avevamo detto, che avremmo fatto un'operazione finanziaria complessiva di 70 milioni, di cui 50 più 20, adesso siamo a 50 più 40. Diteci voi che altro vorremmo fare per mostrare agli altri che stiamo andando nella direzione giusta. Per quanto riguarda gli esuberi? Beh, noi abbiamo una riunione il 5 al Ministero del Lavoro e cercheremo di verificare la compatibilità, diciamo, tra quelle che sono le necessità aziendali e comunque il rispetto dovuto che si deve alle maestranze in una situazione del genere. E appunto, come ricordava l'amministratore delegato del gruppo Sole 24 Ore, Moscetti, la cifra a disposizione è più alta perché l'operazione, per quello che riguarda la formazione, ha generato non 20 ma 40 milioni di euro, portando le risorse complessive a 90 milioni. Come ha ribadito il presidente del gruppo Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, lo ha fatto nel corso dell'assemblea e lo ha anche ribadito al microfono della nostra Anna Marino. Prima di tutto dobbiamo adesso aspettare che si concretizzi questo aumento di capitale, che, come ha detto anche il dottor Moscetti, sarà questione di qualche mese, sono tempi tecnici per l'aumento di capitale. È stata fatta già in questi mesi un intervento importante sui costi che andrà finalizzato, e poi abbiamo questo problema sindacale relativamente agli esuberi, che la settimana prossima al Ministero inizieranno gli incontri, ma sui quali purtroppo per uscire da una situazione difficile quale era il Sole fino a qualche ora fa, a mio giudizio, e soprattutto per la situazione difficile in cui si trova tutto il sistema dell'editoria, da quella soluzione non ci sono vie alternative. Quali rassicurazioni sul capitale, sulla ricapitalizzazione? Garantite, siccome è normale, garantite da un consorzio. Tutto è possibile, io non so fino a che punto azionisti di minoranza che hanno visto appunto un decrescere molto significativo, se non quasi totale, del valore delle loro azioni precedenti siano interessati ad investire. Ma io credo che ci siano sul mercato molte persone individuali o società che continuano a guardare il Sole 24 Ore con interesse. Quindi non credo che sia così complicato raggiungere questo 20 milioni di aumento di capitale sul mercato, e che comunque abbiamo la garanzia del consorzio che è coordinato da IMI. Questo per quello che riguarda il Sole 24 Ore, e poi c'è un'altra assemblea che si è tenuta oggi, quella chiaramente di Mediaset, dove il presidente Confalonieri in primis non le ha certo mandato a dire a Vivendi. A Bolloré ha definito l'operazione, il takeover ostile di Bolloré, un attacco al cuore di Mediaset, quello che ha portato i francesi al 28,8% del capitale, francesi oggi non presenti in assemblea. E ha detto che vi sarà una nuova causa contro Vivendi, perché il contenzioso non riguarda solo i diritti violati, ma anche il fatto che in quel modo, con quell'operazione, si siano frenati i progetti futuri di Mediaset, e quindi vi sia stato un intralcio, un condizionamento pesante allo sviluppo di Mediaset stessa. E poi l'operazione di buyback, ci racconta tutto la nostra Antonella Olivieri. Buonasera Antonella. Buonasera. Allora, l'operazione di buyback, cioè riacquisti di azioni proprie fino al 10%, che obiettivo ha? Allora, l'obiettivo è, diciamo, nel caso in cui Vivendi sia costretta, voglia cedere le azioni che ha preso di Mediaset, che secondo la GCOL non può tenere, che secondo la nuova causa che è stata intentata da Mediaset e Fininvest, appunto non dovrebbe tenere, infatti è stato chiesto che giudice ordini di vendame, allora in quel caso almeno in parte delle vendite potrebbe essere compensato dagli acquisti di Mediaset con il buyback. Tra l'altro è stata individuata una procedura che permette di effettuare i buyback fino al 10% del capitale senza provocare l'OPA da parte di Fininvest. Quindi Fininvest a sua volta avrebbe la possibilità di incrementare la propria partecipazione del 5%. Sommando i due effetti, Fininvest arriverebbe ad avere entro maggio dell'anno prossimo più del 49% di Mediaset, quindi diciamo blindando assolutamente di fatto il controllo. Però l'operazione è stata presentata dalla società più che come una blindatura da parte di Fininvest, come un modo per sostenere il titolo davanti alla previsione di vendite indotte da parte di Vivendi, che ha raggiunto una quota vicina al 30% del capitale. E quindi è da questo punto di vista un'operazione, diciamo così, propedeutica per essere pronti quando Vivendi dovrà poi, come uno può immaginare, cedere quella quota, perché lì c'è una... Forse, perché anche Vivendi ovviamente certo. Sta cercando di difendere la propria posizione e a sua volta ha fatto ricorso al TAR contro la decisione dell'Agicom, che di fatto gli imponeva di scegliere o Telecom o Mediaset, non tutti e due con quella quota di possesso. Grazie anche a Antonella Olivieri. Adesso andiamo sul traffico e poi torniamo sulle banche venete. Per un doppio fronte ci sono state un po' di tensioni in Commissione Europea. I due falchi hanno criticato l'operazione di salvataggio delle banche venete, ma soprattutto altre notizie riguardano, diciamo, devo dire, l'operazione è stata difesa in maniera molto forte dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Nel giorno in cui arrivano invece altre notizie, ma per non togliere così la suspense, le diamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. I wanna be free. Allora, da un lato i due falchi all'interno della Commissione dell'Unione Europea, il tedesco Günther Oettinger, quello che ha oggi diffuso anche la stima di quanti soldi in meno vi saranno per l'assenza della Gran Bretagna da distribuire in Europa, che è responsabile del bilancio, e il collega finlandese titolare della crescita Jyrki Katainen, hanno espresso obiezioni. Katainen si è limitato a dire che l'operazione è stata percepita dall'opinione pubblica italiana come un intervento dello Stato con denaro pubblico, nonostante il varo delle norme sul bail-in. Più duro l'intervento di Oettinger, che ha anche criticato la Banca d'Italia e le autorità italiane per come hanno gestito la vicenda. Il Presidente della Commissione Europea Juncker è intervenuto difendendo la decisione presa dalla commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager e mettendo in sordina le polemiche. Tra l'altro su questo c'è anche l'intervento del vicepresidente della BCE, della Banca Centrale Europea, Victor Constancio, che in un'intervista ha detto: nessun privilegio all'Italia nel salvataggio delle due banche venete, non è stato concesso nessun privilegio particolare, tutto è stato fatto secondo le regole. E intanto ieri il governatore del Veneto, presidente del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato l'allarme sui cosiddetti azionisti risparmiatori. Ha detto Zaia: se gli obbligazionisti saranno ristorati al 100%, lancio il grido d'allarme per quei 205.000 risparmiatori che hanno acquistato azioni non per speculare, ma ritenendo le azioni più sicure delle obbligazioni e investendovi i loro pochi risparmi. Secondo me, ha detto Zaia, andrebbero trattati alla stregua di obbligazionisti e non di azionisti. E penso che la partita non sia del tutto chiusa, che ci sono ancora margini per recuperare questo aspetto sociale, che sono appunto 205.000 risparmiatori, azionisti. Poi ci sono le 49.000 aziende del Triveneto che lavoravano e lavorano con le due banche venete, Veneto Banche e Popolare di Vicenza. Ecco perché il fallimento, oltre che mettere in ginocchio azionisti, obbligazionisti e correntisti, e rischiava di mettere in ginocchio anche correntisti, avrebbe creato un danno enorme all'industria del territorio, che, ed è il motivo per cui ne parliamo con Daniele Marini, per anni direttore della Fondazione Nord-Est e attualmente direttore scientifico del Community Media Research e insegna sociologia all'Università di Padova. Buonasera Marini. Sì, buonasera a voi. Dicevo, tutto questo capita in un momento in cui, il dato era della settimana scorsa, l'Istat ci ricorda che è il nord-est a trainare la ripresa, di cui parlavamo prima con Luca Paolazzi, che si sta un pochino robustendo, fermo restando, che è sotto il livello che vorremmo, è sotto la media europea. È il nord-est la regione che partecipa di più, più 1,2%, tra l'altro anche sull'occupazione, più 1,8%. E nell'export, la SACE ci fa sapere che il Veneto è la seconda regione e il nord-est si conferma quanto a export come tra i principali motori della ripresa. L'Italia ha fatto più 4% in 4 anni. Tra l'altro l'export Veneto ha superato i 58 miliardi di euro l'anno scorso, pari al 14% del totale nazionale. E tra l'altro 5 settori da soli fanno i 2/3 di questo export: meccanica strumentale, tessile e abbigliamento, metallurgia, alimentari e bevande, e vanno dappertutto, sia dentro l'Unione Europea il 60% che fuori dall'Unione Europea il 41% dell'export, 59% da una parte, 41% dall'altra. Un terzo è rappresentato da Germania, Stati Uniti e Francia. Allora, come si tiene insieme, Marini, lei che da sempre studia il nord-est, questo dinamismo delle imprese che nonostante questa crisi hanno molto sofferto, molte hanno chiuso, ma in realtà sono riuscite a riposizionarsi dai dati sull'export sui mercati che contano, e non solo in alcuni settori, con un'ottima distribuzione, con lo shock che sta attraversando comunque il territorio nella parte, diciamo, tutta, soprattutto Vicenza, Treviso, perché si è accorto che insomma la peggior crisi bancaria dopo il Monte dei Paschi e di questo paese, che è molto più grossa come volume, intensità e quant'altro rispetto alle quattro banche, è avvenuta proprio nel suo territorio, che da sempre rivendica l'importanza del rapporto col territorio, la vicinanza delle banche, due banche del territorio in un territorio, mi scuso il gioco di parole, che da sempre rivendica come insomma la diversità del Veneto rispetto a altre regioni. E sta metabolizzando, elaborando, perché qui è emerso una situazione in cui questi banchieri non operavano come dei marziani, operavano con un grosso consenso nel territorio, in pezzi del territorio. Sì, è una situazione, appare come una situazione paradossale, in qualche misura lo è, se vogliamo. Però, diciamo così, allora bisogna avere uno sguardo almeno di, diciamo, di medio periodo. Allora, da un lato, dal punto di vista economico, dobbiamo dire che sicuramente il nord-est è quello che fra i territori in Italia ha patito di più, forse, la crisi avviata nel 2008, l'ha patita di più per il semplice motivo che qui, in queste aree, la concentrazione di imprese manifatturiere era particolarmente diffusa e rilevante, numericamente parlando. Quindi la crisi ha fatto una sorta di pulizia di tutta quella parte di imprese che, diciamo così, era cresciuta in modo arrembante, effervescente a partire dagli anni Ottanta, ma che evidentemente, a fronte di dei processi di globalizzazione, a fronte della stessa crisi, non aveva saputo fare un processo di rinnovamento, di innovazione, di organizzazione tale da poter resistere ai venti, al tourbillon che si è generato appunto a partire dal 2008. Quindi in qualche modo si è creata una polarizzazione, una selezione sul mercato dove, non da oggi ma da alcuni anni, le imprese più strutturate, che non vuol dire solo imprese, diciamo così, di media dimensione o di media grande dimensione, ma anche le più piccole, hanno capito che per rimanere a galla, per essere competitive, bisognava per esempio entrare in filiere, e soprattutto in filiere di tipo internazionali. Vi do un dato su tutte. Le medie imprese, che come sapete sono studiate per le loro particolari performance, quelle fra i 50 e i 250 dipendenti, da Unioncamere, Mediobanche, in questi anni, nel nord-est ogni media impresa, e sono circa 1000, quindi se vogliamo numericamente poche, però ogni media impresa ha relazioni produttive e commerciali con oltre 270 piccoli fornitori. Quindi in realtà non parliamo di medie imprese, ma parliamo di reti di imprese molto diffuse e grosse. Queste medie imprese, che sono quelle, come vengono definite, sono le driver dello sviluppo, hanno, volenti o nolenti, costretto le imprese più piccole della loro filiera a innovare, altrimenti le tagliavano fuori e si prendevano degli altri fornitori, magari di altre località. Allora, questo lavorio, diciamo così, sotto traccia, si è fatto inizialmente vedere, per esempio, se penso ai dati del monitor sui distretti industriali di Intesa San Paolo, sì, in questi anni, che hanno sempre fatto vedere come i distretti che erano stati quelli di cui si era cantata la morte, in realtà si sono evoluti. Io, per esempio, parlo di dislarghi anziché di distretti, di dislarghi, perché queste realtà hanno allargato e allungato le loro reti di produzione e di commercio in tantissimi paesi, lo ricordava lei con i dati dell'export, certo, no? Allora, questo ci dice che in realtà in questi anni recenti, sì, è avvenuta una pulizia sul mercato, e oggi questa pulizia si fa vedere appunto con questi tassi di crescita che, come ha dimostrato anche il rapporto della Banca d'Italia, la sezione Veneto, della settimana scorsa, per la prima volta dopo gli anni della crisi mostrano indicatori col più, certo, davanti, diffusi persino anche nell'edilizia. Allora facciamo una cosa, Daniele Marini, siccome la sua analisi è molto articolata e mi interessa particolarmente, e questo però è il primo pezzo, nel senso come si è rinnovato, riadattato il nord-est, perché parliamo di Veneto ma intendiamo tutto il nord-est, alle nuove dinamiche, e questa dimostrazione che poi l'Expo, tra l'altro qualcuno mi dice ma tanto le imprese hanno delocalizzato, guardate che il fenomeno, ripeto, è del reshoring, cioè la delocalizzazione degli anni 90, Timisoara, Romania, è storia, ci si è accorti che per avere grosso valore aggiunto e posizionarsi su quelle fasce di mercato in molti casi è meglio fare la parte più delicata della produzione in Italia perché ci sono maggiori competenze. Però siccome mi interessa anche l'altra parte dell'analisi, Marini, quella di come si viva questo sdoppiamento tra un Veneto che ha, un Nord-Est che ha recuperato o sta recuperando i livelli di export e poi vive ed è protagonista di una crisi bancaria, di un crack bancario e anche di scandali bancari potentissimi, le do appuntamento a domani perché vorrei tenere assieme le due cose, e la ringrazio intanto, grazie adesso a Daniele Marini. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barigioni l'augurio come sempre di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.